感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话。请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。

Oh.

bambina per ogni umana sorte. Ecco già mi avvicina all'ora della morte, e forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, m'annuncerà il carnefice la fine della vita. Sia strofe ultima dea, ancor d'ora al tuo poeta, ascoltare anche in lea, da fiamma core sueta, io a te mentre tu da me scorni dal cuore darò per rima in acce. Volenti spiriti, il giovani ardore, e la dentro col macino sorriso dell'amor, dell'amor, dal dì che disse vivere, io voglio te. Vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me. Ammi tradì, ammi tradì.